Vorrei dire che questo, dopo un anno dall'accaduto, ancora si lamenta per quella volta che dissi in classe. Cioè no, ma è una cosa assurda. Mi ha chiamato gay. Come, come? Mi ha chiamato gay. Oui, oui. Mi ha chiamato gay. Dimmi com'è, come ti ha chiamato Michele? Mi ha chiamato gay. C'è a scuola un insegnante, continuamente mi prende per deficiente. Io mi chiedo come sarebbe senza un dente. Sfuffo gli rispondo chiaramente. Ha capelli lunghi, da lontano sembra un mocio. Come mense da castrato, ha brutto frocio. Me ne sono accorto con il calippa Coca-Cola, da come lo leccavi l'altro giorno dritto in gola. Lui mi dice: vai dal preside a fine lezione, parli tu che non hai niente dentro al pantalone. Vicino alla stanza, rumori in abbondanza, trova il prof giù a 90, in confidenza, piangente come un salice, arriva nell'ufficio. Mandatelo fuori da questo cazzo di edificio. Giuro, la prossima volta le do del lei. Preside, vede? Continua ad inferire. Mi ha chiamato gay. Mi ha chiamato gay. Terrestre, c'è malgioglio sul 2, spero gli venga la peste. Ho un qualsiasi malessere, immagino un easter egg. Malgioglio che mi chiede se mi spoglio su chat roulette. Ammetto che sarebbe un vero proprio, però non voglio usare la figura del gay in modo improprio. Perché proprio un anno fa ho perso la dignità, più 2 giorni di ban solo perché ho detto frocio. Quindi perché mai dovrei provare odio? Perché invece del goldone sul cazzo ci mette l'olio. E aspetta il capodanno perché si mangia l'anguilla, non le farfalle barilla, né tantomeno la sgrilla. E che fine faremo, pensate voi? Se domani anche i cartoni su Boni saranno tutti yaoi. Ma come puoi vedere gay come persone qualunque? Se verrà questo giorno mi andrò a nascondere in un bunker. Mi ha chiamato